Domanda difficile. Ogni terremoto è una storia a sé. Ovviamente il contesto geologico strutturale del centro Italia è completamente diverso da quello del Friuli del 76. E quello che stiamo osservando sulla sequenza sismica in atto è che effettivamente dopo i primi giorni in cui avevamo tanti terremoti, e pertanto intendo sia come numero di terremoti che come anche energia di terremoti, quindi con magnitudo 4-4,5 risentiti dalla popolazione, in questi ultimi giorni i terremoti sono diminuiti sia per numero che per energia. Quindi staremmo andando a sciamare come sismicità. Sicuramente la sequenza non è chiusa, quindi ci possiamo attendere ancora a terremoti. Quanto forti è una bella scommessa. Non si può escludere che per un altro terremoto, magari fra un mese o due, della magnitudo comparabile al terremoto del 24 agosto, possa accadere. Ma può essere anche che magari si possa avere un terremoto di magnitudo un po' più bassa, un 5, e magari la cosa si stabilizzi così. Io nella particolarità non mi sento di dire altro perché la zona non la conosco benissimo e quindi non saprei dirle in maggior dettaglio come si comporterà la zona del centro Italia. Quindi voi adesso siete in partenza per Amatrice? Noi siamo in partenza per il centro Italia perché in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale andremo ad acquisire dei dati geofisici nell'area, in particolare nell'area di Arquata del Tronto e Montegallo, che assieme a Amatrice e a Cumuli sono i centri che hanno subito maggiore danneggiamento a seguito delle scosse del 24 agosto. E partiremo lunedì mattina con tre squadre, installeremo una decina di stazioni per la misura dei terremoti che ancora sono in corso e questi dati serviranno per fare le carte per poter stabilire come ricostruire questi paesi danneggiati. Ah, quindi la vostra opera tende anche a capire come attuare la ricostruzione, oltre che magari capire... Sì, perché noi lavoriamo sotto, diciamo così, il cappello della Protezione Civile che adesso ha l'urgenza in breve tempo di conoscere quali sono le aree dove possono essere insediati i moduli abitativi provvisori per la popolazione che adesso sta lentamente lasciando le zone, le tende della propria zona di origine ed è mossa e messa negli alberghi della costa. Quindi queste persone passeranno l'inverno in albergo e auspicabilmente con l'inizio della primavera potranno far ritorno ai loro paesi nei moduli abitativi. Per poter capire dove questi moduli abitativi provvisori possono essere costruiti, perché dovranno essere costruiti per un tempo sufficientemente lungo per permettere la ricostruzione dei paesi, è necessario che questi siti non siano soggetti a frane e inondazioni e che siano dei posti sicuri per la popolazione. Quindi c'è bisogno di fare delle indagini per stabilire quali posti di quelli liberi disponibili possono essere scelti per l'installazione di questi moduli. Non dimentichiamoci che siamo in un contesto di Appennino. La quota media dei centri colpiti è di 800 metri in su, quindi sono zone montuose con pochi spazi, con molte problematiche perché ci sono tantissime frane riattivate proprio dal terremoto del 24, per cui non è facile trovare le aree proprio per fare i moduli abitativi provvisori, quindi bisognerà capire bene come muoversi. Quindi tendenzialmente forse dovreste scegliere un'area un po' più pianeggiante, immagino, oppure cercando di mantenere il centro abitativo più vicino a quello originario. Ma ovviamente l'indicazione, la speranza è di mantenere anche i moduli provvisori più prossimi ai centri. E la caratteristica di questi luoghi danneggiati è di essere costituite da tantissime frazioni con poche case, con pochi abitanti residenti e con tantissime seconde case. E purtroppo, come dicevo prima, essendo un ambiente montano, gli spazi liberi sono pochi e quindi bisognerà capire dove è possibile installare questi moduli provvisori. Ho capito. Beh, la gente anche qua in Friuli ogni tanto, quando succedono appunto, i terremoti si stanno tornando con una cadenza purtroppo sempre più puntuale ultimamente, cominciamo anche noi a preoccuparsi un po' della situazione. Com'è l'attività sismica in questo periodo in Ma al Friuli? momento abbiamo una blanda attività sismica per il Friuli, sia in termini di numero di terremoti, ma soprattutto in termini di magnitudo. Abbiamo tantissimi terremoti di magnitudo molto bassa intendo inferiore al 2.0 della scala Richter, e quindi noi abbiamo una rete che copre tutto il Friuli, quindi riusciamo a riconoscere terremoti di magnitudo molto, molto bassa. E i terremoti ce n'è tantissimo ogni giorno, ovviamente non vengono percepiti dalla popolazione, però di fatto sono terremoti che non danno luogo a problematiche, ovviamente per la loro bassa magnitudo. E diciamo così, di terremoti interessanti, che quelli che possono essere percepiti dalla popolazione, abbiamo avuto il terremoto a Vercenis il 10 agosto, che comunque era un terremoto al limite della percezione umana, che era di poco superiore al terzo grado della scala Richter. E per il resto, i terremoti, diciamo così, più strutturati e più importanti, sicuramente abbiamo il terremoto del 30 gennaio del 2015, che era un 4.1 nella zona di Moggio Udinese, e il terremoto di Barcis dell'anno precedente, in agosto. Comunque, una sismicità medio-bassa al momento. E la domanda che tutti ci facciamo, anche noi qui al centro sismologico, è se dobbiamo aspettarci un terremoto più strutturato. La risposta è sicuramente sì, solamente che il terremoto ha il brutto vizio di non avvisare quando arriva, quindi dobbiamo essere pronti. E sicuramente il recente terremoto di Amatrice ci ha messo di fronte alla necessità di essere noi come cittadini più consapevoli dei luoghi in cui viviamo. Se per quanto riguarda il Friuli centrale colpito dal terremoto del 76 possiamo stare abbastanza sicuri, essere abbastanza confidenti che le abitazioni sono state ricostruite bene e quelle non ricostruite sono state risistemate e adeguatamente revisionate per resistere a terremoti importanti, sicuramente c'è tutta una mancanza di questa opera in altre aree del Friuli, pensiamo solamente alla pedemontana pordenonese, che non è stata soggetta alla ricostruzione post 76, dove comunque ci possiamo attendere a terremoti importanti. Non dimentichiamo che nel 1986 il terremoto dell'Appago Consiglio ha creato parecchi danni nella zona di Sacile, per cui sicuramente noi, anche noi in Friuli abbiamo tanto ancora da fare per aumentare la sicurezza dei nostri edifici. Qui parliamo della zona che va, diciamo, da Sacile fino a Maniago, per intenderci. Sì, tutta la parte più sismica del Friuli è la parte pedemontana, il passaggio tra la pianura e la montagna. Tutta la zona che va dal confine, quindi da Barcis al confine con la Slovenia, è tempestata e funestata in epoca strumentale, ma anche in epoca storica di terremoti importanti che hanno segnato parecchi danni. Quindi tutta quell'area lì è un'area potenzialmente a rischio di terremoto importante. Prima ho menzionato il terremoto del 1936, sicuramente un terremoto interessante anche il terremoto del 1928 di Vercenis. Non dimentichiamoci che nel 1700, nella zona di Tramonti, anche lì abbiamo avuto un terremoto importante, probabilmente di magnitudo 6 della scala Richter o molto, molto prossimo. Quindi vedete che le aree dove ci possiamo attendere terremoti importanti è una fascia molto ampia. E quindi bisognerebbe intervenire in maniera prioritaria in quelle aree dove non c'è stata una ricostruzione diffusa come nell'area epicentrale friulana per Sì, dove sono stati quanto riguarda il fatti terremoto 76. i lavori minimi, se non neanche quelli magari a volte. Sì. È solamente che il problema è legato alla normativa che per le nuove case, le nuove realizzazioni, la normativa impone l'adeguamento, non adeguamento, la costruzione antisismica. E questo è un fatto. Ma purtroppo esiste la maggioranza degli edifici che è precedente alla normativa antisismica e che quindi hanno una mancanza, un deficit di sicurezza. La cosa, secondo me, ancora più tragica è che magari dopo il terremoto del 1936 certi abitati sono stati ricostruiti in maniera antisismica con le leggi antiche, diciamo così, che nel corso degli anni, dopo i terremoti importanti come quello del 1976 o i terremoti che sono avvenuti nel mondo, se pensiamo al terremoto di Parfil o al terremoto di Kobe in Giappone, Le tipologie, proprio la strutturazione antisismica dell'edificio è cambiata perché ci si è resi conto che un certo tipo di modo di costruire non era sufficiente a resistere, quindi la normativa nel tempo è cambiata. Quindi anche un edificio costruito con tutti i crismi nel post-terremoto del 1936 attualmente ha un deficit di sicurezza perché nel frattempo sono cambiate le tipologie edilizie, ci si è resi conto che certi accorgimenti tecnici non sono sufficienti in caso di terremoto forte. E quindi noi crediamo di abitare in un edificio antisismico, però magari non è un edificio sufficientemente antisismico. Non so se mi sono spiegata a sufficienza. Ecco, e quindi bisognerebbe magari che i proprietari degli edifici, siano essi privati cittadini o siano enti, provvedessero alla verifica e nel caso in cui la resistenza all'edificio, al terremoto non sia sufficientemente provata, che intervengano a sanare questo deficit. E quindi chiamando eventualmente tecnici come geologi. Ma i geologi in un secondo piano, secondo me prima bisognerebbe chiamare un ingegnere strutturista che ci dica se il nostro edificio può essere o meno può resistere o meno a un certo tipo di terremoto e successivamente eventualmente chiamare il geologo per vedere se il nostro edificio è poggiato su un terreno che in caso di terremoto non dia luogo a cedimenti, a liquefazioni, a frane per esempio, perché è inutile avere una bellissima casa antisismica con tutti i santi crismi, ma se la nostra casa è o collocata su un terreno che in caso di forte terremoto va in liquefazione, pensiamo per esempio al terremoto dell'Emilia dove avevamo tantissima sabbia, che era ubiquitaria perché lì il terreno era ricco d'acqua e di sabbia, in caso di terremoto abbiamo avuto il fenomeno della liquefazione. O per esempio dopo il terremoto di Amatrice abbiamo visto che ci sono state tantissime frane innescate da terremoti e di nuovo se nella nostra bellissima casa antisismica l'abbiamo sotto un pendio che potenzialmente può andare in frana a causa di un terremoto, il nostro bel edificio antisismico non resisterà e quindi di fatto verrà danneggiato. E questi sono tutti elementi che il geologo dovrebbe valutare. Ho Ecco. Quindi capito. avremo bisogno del duplice intervento, e da una parte dell'ingegnere sulla struttura e da una parte del geologo sul contorno in cui la casa, l'edificio è costruito. Sì, è giusto ricordare anche questo, anche perché È giusto, sì, perché tante volte si dimentica sempre un elemento nella questione. Un'ultima cosa, prossime iniziative del CRS. Ho visto che avevate fatto qualcosa con le scuole di recente, se non sbaglio, con Proprio l'estate. stamattina con i colleghi si stava parlando e stava pensando di fare un'apertura dedicata alle scuole ogni mese. Adesso stiamo cercando di capire quale potrebbe essere, dobbiamo strutturarlo magari il primo giovedì del mese, insomma una giornata dedicata alle scuole che possono venire in visita una volta al mese. Inoltre abbiamo un'apertura straordinaria quest'anno in occasione della Settimana del Pianeta Terra, che è un'organizzazione. Un'apertura straordinaria delle sedi di interesse geologico in tutta Italia, noi come centro sismologico abbiamo deciso di aprire, di fare un porta aperta e congiunto e quindi la fine settimana del 22-23 ottobre, se non ricordo male, avremo la manifestazione porta aperta in cui apriremo la nuova sede alla popolazione. Non dimentichiamo che quest'anno, in occasione del 40° anniversario del terremoto del Friuli, ad aprile abbiamo inaugurato la nuova sede. In quell'occasione avevamo avuto i politici e le istituzioni in visita per l'inaugurazione ufficiale, però noi vogliamo fare un'apertura dedicata alla popolazione, alla gente che è molto sensibile, noi lo capiamo benissimo, al problema del terremoto e vogliamo dare spazio al cittadino qualunque di poter venire a visitare, a fare domande, ad osservare quello che noi facciamo qui in sede. E quindi questa sarà l'occasione per poter venire a curiosare nei nostri laboratori. Però cercheremo di rendere più chiara la nostra attività, sicuramente avremo dei laboratori per i bambini, avremo delle conferenze dedicate su dei temi di solito molto attrattivi per la popolazione e vi porteremo in visita al nostro centro, questo sicuramente. Anche per fargli capire come devono comportarsi se dovessero avvertire un terremoto, anche se le scuole lo fanno regolarmente, però non si è mai abbastanza preparati in queste Ma secondo circostanze. me sì, bisogna Adesso io vedo con le persone, adesso è passato finalmente il concetto di differenza tra scala Richter e scala Mercalli, ossia l'effetto che il terremoto fa sull'abitato, scala Mercalli, la grandezza del terremoto in sé, scala Richter. Questo ormai le persone vedo che lo capiscono, sanno benissimo cos'è uno, cos'è l'altro, e questo è un grande passo che abbiamo fatto. Secondo me il grande proposito per l'avvenire nostro è rendere conto le persone del problema della pericolosità sismica, da una parte, che è una cosa che non si può cambiare. Noi come friulani viviamo in un territorio sismico, i terremoti in passato ci sono sempre stati e sempre avverranno. Questa è la pericolosità sismica. Il rischio sismico è quanto noi come umani ci mettiamo dentro la pericolosità, ovvero sia, se noi viviamo in un paese sismico, se costruiamo male, il rischio sismico aumenta. Se costruiamo bene, il rischio sismico si abbassa a parità di pericolosità sismica. Questo è il grande cruccio che noi abbiamo. Vogliamo far capire alle persone che con i terremoti si può convivere a patto che si rispettino certe regole. E le certe regole sono, prima di tutto, abbassare la vulnerabilità degli edifici, perché abbiamo visto proprio per il terremoto di centro Italia che la vulnerabilità degli edifici è stata il problema principale di tutte le vittime che si sono avute ad Amatrice e a Cumuli. E quindi bisogna che le persone si rendano conto che viviamo in un paese sismico e che l'effetto del terremoto si può prevenire se noi costruiamo bene. Quindi bisogna incentivare le persone a chiedere di vivere in edifici sicuri, di mandare i figli a scuola in scuole sicure, di essere ricoverati in ospedali sicuri e di vivere in una società sicura. E quindi questo è il grande obiettivo che abbiamo. Bene, allora grazie Carla Barnaba per l'intervista e grazie infinitamente per il lavoro svolto e sicuramente verremo anche noi a trovarvi in tempi brevi. Sicuramente vi avviseremo Sì. della settimana prima, voi siete radio, magari sarà interessante anche per voi, sicuramente. Eh sì, Ma comunque davvero. daremo pubblicità alla manifestazione, così ci sarà l'occasione per poter venire a visitare i nostri laboratori. Io vi ringrazio e vi saluto Grazie e a a voi presto. tutti e buon viaggio verso Amatrice dunque. E buona Grazie di nuovo, giornata. arrivederci. Arrivederci, ciao. Grazie.